E ora so come lottare, e ora so come sperare, e ora so come amare, e ora so come servire in Cristo Gesù, in Cristo Gesù, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, io la so come sudare, io la so come curare, io la so come soffrire, io la so come morire in te Gesù. Io la so come pregare, io la so come lodare in te Gesù, come giù, come giù, come giù, in te Gesù, come can, come can, come can, come in te Gesù. Thank you. Jesús.